Quando sarò grande mi sposerò con te e vivremo qui alle Tre Marie, disse in un sussurro. Pedro se ne rimase a guardarla, con espressione da vecchio triste, e fece segno di no con la testa. Era ancora molto più bambino di lei, ma sapeva già qual era il suo posto nel mondo. Sapeva anche che avrebbe amato quella ragazza per tutta la vita, che quell'alba sarebbe rimasta nel suo ricordo e che sarebbe stato l'ultima che avrebbe visto in punto di morte. Quell'estate la trascorsero tra l'infanzia che ancora li possedeva e il risveglio dell'uomo e della donna. In certi momenti correvano come bambini, facendo svolazzare galline e mettendo in subbuglio le mucche. Si saziavano di latte tiepido appena munto, che lasciava loro i baffi di schiuma. Si rubavano il pane uscito dal forno, si arrampicavano sugli alberi per costruire rifugi arborei. Altre volte si nascondevano nei posti più segreti e fitti del bosco, facevano letti di foglie e giocavano a essere sposati, accarezzandosi fino all'estenuazione. Non avevano perso l'innocenza di togliersi i vestiti e fare il bagno nudi nel fiume, come avevano sempre fatto, tuffandosi nell'acqua fredda e lasciando che la corrente li trascinasse sulle pietre levigate del fondo, ma c'erano cose che ormai non spartivano come prima. Impararono ad avere vergogna tra loro. Non gareggiavano più per vedere chi era capace di fare con l'urina la pozzanghera più grande e Blanca non gli parlò di quella materia scura che le macchiava le mutande una volta al mese. Senza che nessuno gliel'avesse detto, capirono che non potevano mostrarsi troppo in confidenza davanti agli altri. Quando Blanca si metteva i suoi vestiti da signorina e si sedeva la sera sulla terrazza a bere limonata con i suoi familiari, Pedro III la osservava da lontano senza avvicinarsi. Cominciarono a nascondersi per i loro giochi, smisero di tenersi per mano sotto gli sguardi degli adulti e fecero finta di ignorarsi per non attrarre la loro attenzione. La nana respirò più tranquilla, ma Clara cominciò a osservarli con maggiore attenzione. Le vacanze finirono e i Trueba tornarono alla capitale carichi di barattoli di marmellata, conserve, casse di frutta, formaggi, galline e conigli in salamoia, cesti di uova. Mentre sistemavano tutto nelle auto che li avrebbero portati al treno, Blanca e Pedro III si nascosero nel granaio per salutarsi. In quei 3 mesi erano giunti ad amarsi con quella passione travolgente che li sconvolse per il resto della loro vita. Col tempo quell'amore si fece più invulnerabile e persistente, ma già allora aveva la stessa profondità e sicurezza che lo caratterizzò in seguito. Sopra un covone di grano, aspirando l'aromatico pulviscolo del granaio nella luce dorata e diffusa della mattina che si infiltrava tra le assi, si baciarono in ogni punto, si leccarono, si morsero, si succhiarono, si inghiozzarono e bevvero le lacrime di entrambi e si giurarono eterno amore e concertarono un codice segreto che sarebbe servito per comunicare durante i mesi di separazione. Tutti quelli che assistettero a quel momento concordarono nel dire che erano circa le 8 della sera, quando apparve Ferula, senza che nessuno avesse presagito il suo arrivo. Tutti la poterono vedere con la sua camicetta inamidata, il suo mazzo di chiavi alla cintura e la sua crocchia da zitella, così come l'avevano vista sempre in casa. Entrò dalla porta della sala da pranzo mentre Esteban cominciava a tagliare l'arrosto e la riconobbero subito, nonostante fossero 6 anni che non la vedevano e lei fosse molto più pallida e molto più vecchia. Era un sabato e i gemelli Jaime e Nicolás erano usciti dal collegio per trascorrere il fine settimana con la famiglia, sicché anche loro erano presenti. La loro testimonianza è molto importante perché erano gli unici membri della famiglia che vivevano completamente lontani dal tavolino a tre gambe, sottratti alla magia e allo spiritismo dal loro rigido collegio inglese. Dapprima sentirono un freddo immediato nella sala e Clara ordinò che chiudessero le finestre perché aveva pensato che si trattasse di una corrente d'aria. Poi udirono il tintinnare delle chiavi e quasi immediatamente si aprì la porta e apparve Ferula, silenziosa e con un'espressione assente, nello stesso momento in cui entrava la nana dalla porta della cucina con la ciotola dell'insalata. Esteban Trueba rimase col coltello e la forchetta da trinciare a mezz'aria, paralizzato dalla sorpresa. E i tre bambini gridarono: «Zia Ferula!» quasi all'unisono. Blanca fece per alzarsi e andarle incontro, ma Clara, che era seduta al suo lato, tese la mano e la trattenne per il braccio. In realtà, Clara fu l'unica a rendersi conto fin dal primo sguardo di quanto stava succedendo, per via della sua lunga familiarità con le faccende soprannaturali, anche se nulla nell'aspetto della cognata rivelava il suo vero stato. Ferula si fermò a un metro dalla tavola, guardò tutti con occhi vacui e indifferenti e poi si diresse verso Clara, che si alzò, ma non fece alcun gesto per avvicinarsi, bensì chiuse gli occhi. E cominciò a respirare convulsamente, come se fosse stata sul punto di avere uno dei suoi attacchi di asma. Ferula le si avvicinò, le mise una mano su ciascuna spalla e la baciò sulla fronte con un breve bacio. L'unica cosa che si udiva nella sala era il respiro ansimante di Clara e il tintinnio metallico delle chiavi alla cintura di Ferula. Dopo aver baciato sua cognata, Ferula le passò al lato e uscì da dove era entrata, chiudendo con dolcezza la porta alle sue spalle. Nella sala da pranzo la famiglia rimase immobile come in un incubo. Improvviso la nana cominciò a tremare così forte che le caddero le posate da insalata e il rumore dell'argento che cozzava contro il pavimento li fece trasalire tutti. Clara aprì gli occhi, continuava a respirare a fatica e lacrime silenziose le cadevano lungo le guance e il collo, macchiandole la camicetta. Ferula è morta, annunciò. Esteban Trueba lasciò cadere le posate per trinciare l'arrosto sulla tovaglia e uscì di corsa dalla sala. Arrivò fino in strada chiamando sua sorella, ma non trovò neppure una traccia di lei. Intanto Clara ordinò a un servitore che andasse a prendere i cappotti e quando suo marito ritornò stava infilandosi il suo e aveva in mano le chiavi dell'automobile. Andiamo da padre Antonio, gli disse. Fecero la strada in silenzio e Esteban guidava col cuore oppresso, cercando la vecchia parrocchia di Padre Antonio in quei quartieri di poveri dove da molti anni non metteva piede. Il sacerdote stava attaccando un bottone alla sua lisa sottana quando arrivarono con la notizia che Ferula era morta. Non può essere, esclamò. Sono stato con lei 2 giorni fa ed era in buona salute e di buon umore. Ci porti a casa sua, padre, per favore, supplicò Clara. So quello che le dico, è morta. Di fronte all'insistenza di Clara, padre Antonio li accompagnò, guidò Esteban per vie strette fino al domicilio di Ferula. Durante quegli anni di solitudine era vissuta in uno di quei rioni popolari in cui andava a recitare il rosario contro la volontà dei beneficiari ai tempi della sua gioventù. Dovettero lasciare l'auto a vari isolati di distanza perché le strade si andavano facendo via via più anguste, finché non capirono che erano fatte per andare a piedi o in bicicletta. Si addentrarono senza macchina, evitando le pozzanghere dell'acqua sporca che straripava dalle fognature, scartando l'immondizia ammucchiata in cumuli tra cui i gatti frugavano come ombre caute. Il rione era un lungo vicolo di case in rovina, tutte uguali, piccole e umili abitazioni di cemento con una sola porta e 2 finestre, dipinte di colori grigiastri, sconnesse, rose dall'umidità, con fili di ferro tesi attraverso il vicolo dove di giorno si stendeva la biancheria al sole, ma a quell'ora di notte spogli ondeggiavano impercettibilmente. Nel centro della viuzza c'era un'unica fontana per soddisfare tutte le famiglie che vivevano lì e solo 2 lampioni illuminavano il passaggio tra le case. Padre Antonio salutò una vecchia che si trovava vicino alla fontana in attesa che si riempisse il secchio con l'esiguo filo d'acqua che usciva dal rubinetto. «Ha visto la signorina Ferula?» domandò. «Deve essere a casa sua, padre, non l'ho vista negli ultimi giorni», disse la vecchia. Padre Antonio indicò un'abitazione uguale alle altre, triste, scrostata e sudicia, ma l'unica che avesse 2 vasi appesi accanto alla porta, dove crescevano piccoli ciuffi di cardinali, fiori dei poveri. Il sacerdote bussò all'uscio. «Entrate pure!» gridò la vecchia dalla fontana. «La signorina non chiude a chiave la porta. Non c'è niente da rubare lì!» Esteban Trueba aprì, chiamando sua sorella, ma non osò entrare. Clara fu la prima a varcare la soglia. Dentro era buio e le venne incontro il solito odore di lavanda e limone. Padre Antonio accese un fiammifero. La debole fiamma disegnò un cerchio di luce nella penombra. Ma prima che potessero andare avanti o rendersi conto di quello che li circondava, si spense. «Aspettate qui», disse il prete, «conosco la casa». Avanzò a tentoni e poco dopo accese una candela. La sua figura risaltò grottesca e videro la sua faccia deformata dalla luce che gli veniva da sotto, mentre la sua ombra gigantesca tremolava contro la parete. Clara illustrò questa scena con minuzia nel suo diario, descrivendo nei dettagli le due stanze buie, i cui muri erano macchiati dall'umidità, il piccolo gabinetto sudicio e senza acqua corrente, la cucina in cui rimanevano solo avanzi di pane vecchio e un barattolo con un po' di tè. Il resto della casa di Ferula sembrò a Clara coerente con l'incubo che aveva vissuto quando sua cognata era comparsa nella sala da pranzo della grande casa dell'angolo per accomiatarsi. Le fece l'impressione che fosse il retrobottega di un venditore di indumenti usati o il proscenio di una misera compagnia di teatro in tournée. Da alcuni chiodi sui muri pendevano abiti antiquati, boa di piume, squallidi pezzi di pelliccia, collane di pietre false, cappelli che da mezzo secolo non si usavano più, sottovesti stinte con i pizzilogori, vestiti che erano stati sontuosi e la cui brillantezza non esisteva più. Imprevedibili giacche d'ammiraglio e pianete da vescovi, il tutto mescolato in una fratellanza grottesca in cui si era annidata la polvere degli anni. A terra c'era una confusione di scarpe di raso, di borsette da debuttante, di cinture di bigiotteria, di bretelle e persino una fiammante spada da cadetto militare. Vide parrucche tristi, posticci con cosmetici, bottiglie vuote, un eccesso di articoli impossibili sparsi dappertutto. Una porta stretta separava le due uniche stanze. Nell'altra camera, Ferula giaceva nel suo letto. Agghindata come una regina austriaca, portava addosso un abito di velluto tarlato, sottane di taffeta giallo e sulla sua testa, fermamente calcata, brillava un'incredibile parrucca a riccioli da cantante d'opera. Non c'era nessuno con lei. Nessuno aveva saputo della sua agonia e si calcolò che fosse morta da molte ore perché i topi cominciavano già a morderle i piedi e a divorarle le dita. Era magnifica nella sua desolazione di regina e aveva sul volto l'espressione dolce e serena che non aveva mai avuto durante la sua esistenza da incubo. Le piaceva vestirsi con roba usata che si procurava di seconda mano o che raccattava negli immondezzai. Si pitturava e si metteva quelle parrucche, ma non ha mai fatto male a nessuno. Anzi, sino alla fine dei suoi giorni recitava il rosario per la salvezza dei peccatori, spiegò padre Antonio. Lasciatemi sola con lei, disse Clara con fermezza. I due uomini uscirono nel vicolo, dove cominciavano a radunarsi i vicini. Clara si tolse il cappotto di lana bianca e si rimboccò le maniche. Si avvicinò a sua cognata, le tolse con dolcezza la parrucca e vide che era quasi calva, vecchia e striminzita. La baciò sulla fronte, così come lei l'aveva baciata poche ore prima nella sala da pranzo della sua casa, e subito cominciò in tutta calma a improvvisare i riti della morte. La spogliò, la lavò, la insaponò meticolosamente senza dimenticare alcun angolo. La frizionò con acqua di colonia, la incipriò, spazzolò i suoi quattro peli amorosamente, la vestì con i più strampalati ed eleganti stracci che trovò, le mise la sua parrucca da soprano, restituendole nella morte quegli infiniti servigi che Ferula le aveva prodigato in vita. Mentre si dava da fare, lottando contro l'asma, le raccontava di Blanca, che ormai era una signorina, dei gemelli, della grande casa dell'angolo, della campagna, e se vedessi come ci manchi, cognata, il bisogno che ho di te per occuparmi di questa famiglia, sai bene che non so sbrigarmela nelle incombenze della casa. I ragazzi sono insopportabili, mentre Blanca è una bambina adorabile e le ortensie che hai piantato con le tue stesse mani alle Tre Marie sono diventate meravigliose. Ce ne sono di azzurre perché avevo messo monete di rame nella terra concimata affinché fiorissero di quel colore. È un segreto di natura e ogni volta che le metto nei vasi mi ricordo di te, ma mi ricordo di te anche quando non ci sono ortensie. Mi ricordo sempre, Ferula, perché la verità è che da quando te ne sei andata dal mio fianco, nessuno mi ha più dato tanto amore. Finì di acconciarla, si fermò un momento per parlarle e accarezzarla, e poi chiamò suo marito e padre Antonio perché si occupassero della sepoltura. In una scatola di biscotti trovarono intatte le buste col denaro che Esteban aveva inviato ogni mese a sua sorella in tutti quegli anni. Clara La diede al sacerdote per le sue opere pie, sicura che quella era la destinazione che Ferula pensava di darle comunque. Il prete rimase con la morta affinché i topi non le mancassero di rispetto. Era circa mezzanotte quando uscirono. Sulla soglia si erano riuniti i vicini del rione per commentare la notizia. Dovettero farsi strada, spingendo da parte i curiosi e scacciando i cani che annusavano tra la gente. Esteban si allontanò a grandi falcate portando Clara per il braccio, quasi trascinandola senza badare all'acqua sudicia che schizzava i suoi impeccabili pantaloni grigi del sarto inglese. Era furioso perché sua sorella, persino dopo morta, riusciva a farlo sentire colpevole, proprio come da bambino. Ricordò la sua infanzia quando lo circondava con le sue oscure sollecitudini, avviluppandolo in debiti di gratitudine così grandi che con tutti i giorni della sua vita non avrebbe potuto pagarli. Sentì di nuovo il senso di inferiorità che sempre lo tormentava in sua presenza e detestò di nuovo il suo spirito di sacrificio, la sua severità, la sua vocazione alla povertà e la sua inalterabile castità, che lui sentiva come un rimprovero alla sua natura egoista, sensuale e affamata di potere. Che il diavolo ti porti, maledetta! Biascicò, rifiutandosi di ammettere neppure nel più intimo del suo cuore che pure sua moglie non era più riuscita ad appartenergli da quando aveva cacciato Ferula dalla casa. Perché viveva così se soldi ne aveva? Gridò Esteban. Perché le mancava tutto il resto, replicò Clara dolcemente. Durante i mesi che rimasero separati, Blanca e Pedro III si scambiarono per posta lettere infiammate che lui firmava con un nome di donna e che lei nascondeva non appena arrivavano. La nana riuscì a intercettarne uno o due, ma non sapeva leggere e anche se l'avesse saputo, il codice segreto le impediva di capire il senso, fortunatamente per lei, perché il suo cuore non l'avrebbe sopportato. Blanca trascorse l'inverno lavorando a maglia un panciotto di lana scozzese durante le lezioni di economia domestica a scuola, pensando alle misure del ragazzo. Di notte dormiva abbracciata al panciotto, aspirando l'odore della lana e sognando che fosse lui a dormire nel suo letto. Pedro III, a sua volta, trascorse l'inverno componendo alla chitarra canzoni da cantare a Blanca e intagliando la sua immagine in qualunque pezzo di legno gli capitasse tra le mani, senza poter separare il ricordo angelico della ragazza da quelle tormente che gli ribollivano nel sangue, gli ammollivano le ossa, gli stavano facendo cambiare la voce e spuntare peli sulla faccia. Si dibatteva inquieto tra le esigenze del suo corpo che si stava trasformando in quello di un uomo e la dolcezza di un sentimento che era ancora tinto dei giochi innocenti dell'infanzia. Entrambi aspettarono l'arrivo dell'estate con un'impazienza dolorosa e finalmente quando arrivò e si ritrovarono, il panciotto che Blanca aveva fatto per Pedro III non gli passava per la testa perché in quei mesi si era lasciato alle spalle l'infanzia, raggiungendo le proporzioni di un uomo fatto. E le tenere canzoni di fiori e di albe che aveva composto per lei gli risuonavano ridicole perché lei aveva il fare di una donna e le sue urgenze. Pedro III era sempre magro, con i capelli lisci e gli occhi tristi, ma cambiando la voce aveva acquisito una tonalità rauca e appassionata con cui sarebbe stato conosciuto più tardi quando avrebbe cantato la rivoluzione. Parlava poco ed era rude e sgradevole nel modo di fare, ma tenero e delicato con le mani. Aveva dita lunghe da artista con le quali intagliava il legno, strappava lamenti alle corde della chitarra e disegnava con la stessa facilità con cui reggeva le redini di un cavallo. Brandiva l'ascia per tagliare la legna o guidava l'aratro. Era l'unico alle Tre Marie che teneva testa al padrone. Suo padre, Pedro II, gli aveva detto mille volte di non guardare il padrone negli occhi, di non rispondergli, di non prendersela con lui. E nel desiderio di proteggerlo arrivò a dargli delle belle legnate per fargli chinare il capo, ma il figlio era ribelle. A 3 anni ne sapeva quanto la maestra della scuola delle Tre Marie e a 12 insisteva per andare alla scuola del villaggio. A cavallo o a piedi, partendo dalla sua casetta di mattoni alle 5 del mattino, che piovesse o tuonasse. Lesse e rilesse mille volte i libri magici dei bauli incantati dello zio Marcos e continuò a nutrirsi di altri che gli prestavano i sindacalisti del bar e padre José Dulce María, che gli insegnò anche a coltivare la sua abilità naturale di scrivere versi e tradurre in canzoni le sue idee. Figliolo, la Santa Madre Chiesa sta a destra, ma Gesù Cristo è stato sempre a sinistra. diceva enigmaticamente tra un sorso e l'altro di vino da messa con cui festeggiava le visite di Pedro III. E fu così che un giorno Esteban Trueba, che stava riposando sulla terrazza dopo pranzo, lo udì cantare di certe galline organizzate che si univano per affrontare la volpe e la vincevano. Lo chiamò. «Voglio sentirti cantare. Canta, su!» gli ordinò. Pedro III prese la chitarra con un gesto amoroso, appoggiò la gamba su una seggiola e tese le corde. Restò a guardare fissamente il padrone mentre la sua voce vellutata si levava nel sopore della siesta. Esteban Trueba non era stupido e comprese la sfida. «Bene, vedo che cantando si possono dire le cose più stupide», grugnì. «Impara piuttosto canzoni d'amore». «A me piace, padrone. L'unione fa la forza, come dice padre José Dulce Maria. Se le galline possono affrontare la volpe, che cosa devono fare gli uomini?» E prese la chitarra e se ne andò, strascicando i piedi, senza che l'altro potesse ribattergli, nonostante sentisse già la rabbia a fior di labbra e cominciasse ad aumentargli la pressione. Da quel giorno Esteban Trueba lo prese di mira, l'osservava, era diffidente, fece in modo da impedirgli di andare a scuola al villaggio inventandogli incombenze da uomo adulto, ma il ragazzo si alzava prima e andava a dormire più tardi per compierle. Fu quello l'anno in cui Esteban lo percosse con la frusta davanti a suo padre perché aveva introdotto tra i mezzadri le novità che stavano circolando tra i sindacalisti del paese: idee di domenica di riposo, di salario minimo, di pensione, di servizio sanitario, di permesso di maternità per le donne gravide, di votazioni senza interferenze e la più grave, l'idea di un'organizzazione contadina che potesse affrontare i padroni. Quell'estate, quando Blanca andò a passare le vacanze alle Tre Marie, quasi non lo riconobbe perché era cresciuto di 15 centimetri e si era lasciato alle spalle il bambino dal ventre gonfio che spartiva con lei le estati dell'infanzia. Scese dall'auto, si lisciò la gonna e per la prima volta non corse ad abbracciarlo, bensì gli fece un cenno con la testa a mo' di saluto, seppure con gli occhi gli dicesse quello che gli altri non dovevano udire e che del resto gli aveva già detto nella sua impudica corrispondenza in chiave. La nana osservò la scena con la coda dell'occhio e sorrise maliziosa. Passando davanti a Pedro III gli fece un cenno: «Impara, moccioso, a fartela con quelli della tua classe e non con signorine», scherzò tra i denti. Quella sera Blanca mangiò con tutta la famiglia la fricassea di pollo con cui venivano sempre accolti alle Tre Marie, senza che si intravedesse in lei qualche ansietà per il prolungato dessert durante il quale il padre beveva cognac e parlava di mucche importate e di miniere d'oro. Attese che sua madre desse il segnale di ritirarsi e poi si alzò con calma, augurò la buonanotte a ciascuno e se ne andò in camera sua. Per la prima volta in vita sua chiuse a chiave la porta. Si sedette sul letto, senza spogliarsi, e aspettò nel buio finché non tacquero le voci dei gemelli che si agitavano nella stanza accanto, i passi della servitù, le porte, le serrature, e la casa non si addormentò. Allora aprì la finestra e saltò giù, andando a cadere sui cespugli di ortensie che molto tempo prima la zia Ferula aveva piantato. La notte era chiara, si udivano i grilli e le rane, respirò profondamente e l'aria le recò l'odore dolciastro delle pesche che venivano fatte seccare nel cortile per la marmellata. Attese che i suoi occhi si abituassero all'oscurità e poi cominciò ad avanzare, ma non poté andare oltre perché udì i latrati furibondi dei cani da guardia che di notte venivano sciolti. Erano quattro mastini che erano cresciuti legati alla catena e che passavano la giornata chiusi, che lei non aveva mai visto da vicino e sapeva che non potevano riconoscerla. Per un attimo sentì che il panico le faceva perdere la testa e fu sul punto di mettersi a gridare, ma allora si ricordò che Pedro Garcia il vecchio le aveva detto che i ladri vanno nudi per non essere aggrediti dai cani. Senza indugio si spogliò dei suoi indumenti con tutta la rapidità che i nervi le permettevano. Se li mise sotto braccio e continuò a camminare con passo tranquillo, pregando affinché le bestie non fiutassero la sua paura. Li vide scagliarsi, latrando, e continuò a camminare senza perdere il ritmo del passo. I cani si avvicinarono, ringhiando, sconcertati, ma lei non si fermò. Uno, più audace degli altri, si avvicinò a fiutarla, Percepì il soffio tiepido del suo respiro tra le spalle, ma fece finta di niente. Continuarono a ringhiare e ad abbaiare per un po', l'accompagnarono per un tratto e infine, infastiditi, tornarono indietro. Blanca sospirò di sollievo e si rese conto che stava tremando ed era coperta di sudore. Dovette appoggiarsi a un albero e aspettare finché le fu passato l'affanno che le aveva mozzato le gambe. Poi si vestì rapidamente e si mise a correre verso il fiume. Pedro III l'aspettava, nello stesso posto in cui si erano ritrovati l'estate precedente, dove molti anni prima Esteban Trueba si era impadronito dell'umile verginità di Pancia Garcia. Alla vista del ragazzo, Blanca arrossì violentemente. Durante i mesi in cui erano stati separati, lui si era indurito nell'arduo compito di farsi uomo e lei invece era stata reclusa tra le pareti della sua casa e della scuola delle monache, preservata dal logorio della vita, nutrendo sogni romantici con i ferri da lana. Ma l'immagine dei suoi sogni coincideva con quel giovane che si avvicinava, mormorando il suo nome. Pedro III tese la mano e le toccò il collo all'altezza dell'orecchio. Blanca sentì qualcosa di caldo che le scorreva nelle ossa e le rendeva molli le gambe. Chiuse gli occhi e si abbandonò. La trasse a sé con dolcezza. La cinse fra le sue braccia, lei affondò il naso nel petto di quell'uomo che non conosceva, così diverso dal bambino magro con cui si accarezzava sino all'estenuazione pochi mesi prima. Aspirò il suo nuovo odore, si strofinò contro la pelle ruvida, palpò quel corpo asciutto e forte e sentì una grandiosa e completa pace che in nulla somigliava all'agitazione che si era impossessata di lui. Si cercarono con le lingue come facevano prima, sebbene sembrasse una carezza appena inventata. Caddero riversi, baciandosi con disperazione e poi rotolarono sul tenero letto di terra umida. Si scoprivano per la prima volta e non avevano niente da dirsi. La luna percorse tutto l'orizzonte, ma loro non la videro perché erano intenti ad esplorare le profondità più intime, penetrando ognuno nella pelle dell'altra insaziabilmente. Da quella notte in poi Blanca e Pedro III si incontravano sempre nello stesso posto alla stessa ora. Di giorno lei ricamava, leggeva e dipingeva insipidi acquerelli nei dintorni della casa, davanti allo sguardo felice della nana che poteva infine dormire tranquilla. Invece Clara aveva il presentimento che stesse per succedere qualcosa di strano, perché vedeva un nuovo colore nell'aura di sua figlia e credeva di indovinarne la causa. Pedro III faceva i consueti lavori nei campi e non smise di andare in paese a trovare i suoi amici. Al cadere della notte era morto di fatica, ma la prospettiva di ritrovarsi con Blanca gli restituiva le forze. Non per nulla aveva 15 anni. Così trascorsero tutta l'estate e molti anni dopo avrebbero entrambi ricordato quelle notti veementi come la migliore epoca della loro vita. Intanto Jaime e Nicolás approfittavano delle vacanze per fare tutte quelle cose che erano proibite nel collegio britannico, gridando fino a sgolarsi, facendo la lotta con qualsiasi pretesto, trasformati in due mocciosi, lerci, sbrindellati, con le ginocchia piene di croste e la testa di pidocchi, sazi della tiepida frutta appena colta, del sole e della libertà. Uscivano all'alba e non rincasavano fino al tramonto, occupati a dar la caccia ai conigli con sassate, a correre a cavallo a perdifiato, a spiare le donne che insaponavano la biancheria nel fiume.